La proiezione comincia e ci sono le manifestazioni a favore dei Viet Cong di tutta Europa. Allora, in quell'anno particolare, beh, qualcuno ha pensato di mandare ai Viet Cong una pizza di pellicola che raccontasse che cosa succedeva e negli Stati Uniti e in Europa. E questo mi sembra una descrizione molto adatta per raccontare il 68. Bene, allora ricordiamo Arrivederci Saigon, il film di Vilma L'Abate, in uscita in sala in tutta Italia a partire dal 31 ottobre. Vilma, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Il 30 ottobre. Il 30, allora rettifico, 30 ottobre. Ciao. Ciao ciao. Grazie.